Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Giusy Santoro di M2 Pictures per presentare il film L'uomo che uccise Don Quixote di Terry Gilliam in uscita in sala giovedì 27 settembre. Giusy, ben trovata. Ben trovati a voi. Come lo presenteresti? Allora, intanto L'uomo che uccise Don Quixote è una bellissima storia di fantasia, di avventura, anche molto divertente, ispirata proprio al leggendario protagonista di un classico della letteratura che tutti noi o molti di noi conoscono, il Don Quixote di Miguel de Cervantes. Il film poi è diretto da un maestro del cinema, Terry Gilliam, regista che conosciamo per film molto noti anche in Italia, ultimo Parnassus, sull'uomo che voleva ingannare il diavolo, Paura e delirio a Las Vegas, L'esercito delle 12 scimmie, Brasil. Un film con un cast importante, Adam Driver, e uno splendido, spettacolare Jonathan Pryce, che dà un'ottima interpretazione del Don Quixote, insomma, all'interno di questo film, e completano il cast poi Olga Kurylenko e Stellan Skarsgård. È un film molto interessante, poi è una sorta di adattamento dell'attuale, moderno del Don Quixote. E se volete vi racconto anche un po' di storia, un po' di trama, senza ovviamente... Sì, raccontiamolo un po' a chi ci ascolta, certo. Ok, allora, nella storia si parla di Toby, che poi è interpretato appunto da Adam Driver, che è un cinico regista pubblicitario, anche abbastanza insensibile e arrogante, perlomeno appunto nella prima parte del film, e che mentre tenta di ultimare uno spot commerciale in Spagna, viene avvicinato da un giovane gitano con una copia di un suo vecchio film che poi aveva girato quando era un giovane ed idealista studente di cinema. E il film proprio che lui aveva girato a quel tempo era una rivisitazione lirica della storia del Don Quixote. Quindi molto toccato da questa vicenda decide di partire visto che era un villaggio dove aveva girato tanti anni prima. Tuttavia però si rende conto con orrore che quel piccolo film aveva provocato terribili conseguenze in quel villaggio, quindi Angelica ad esempio, che una volta era una persona, che una giovane innocente, ora era diventata una escort di lusso, come il vecchio che interpretava Don Quixote era diventato completamente pazzo, si credeva lui stesso Don Quixote, e tra l'altro quando incontra Toby lo scambia per Sancho, il suo fedele scudiero, e proprio lo trascina in un viaggio bizzarro proprio tra realtà e fantasia, e là inizia un'avventura che, come dicevo, a tratti è anche molto divertente. Per Terry Gilliam questa storia del Don Quixote era stata quasi una maledizione cinematografica. Erano 25 anni che cercava di realizzare questo film, testimonianza ne è stata nel 2001 il documentario Lost in La Mancia, e finalmente ci è riuscito. Sì, finalmente ci è riuscito, anzi sono quasi 30 anni, perché nel 1989 addirittura aveva iniziato a lavorare su questo progetto. Un progetto che poi lui non ha mai voluto abbandonare, nonostante gli innumerevoli tentativi poi di realizzarlo siano stati proprio funestati nel tempo da ogni possibile disavventura produttiva. E, tra l'altro, la scorsa settimana il regista è stato a Roma e proprio durante la conferenza stampa ha sottolineato che però il film odierno è ancora più interessante di quello che lui aveva pensato tanti anni fa, e lui stesso ha detto che sono rimaste proprio le idee più originali rispetto al progetto iniziale. E tra l'altro vorrei ricordare insomma una frase che ha citato insomma durante la conferenza stampa sulle motivazioni per cui non ha mai abbandonato questo progetto. È proprio una motivazione perché tutte le persone a lui vicine e tutte le persone ragionevoli gli dicevano: no, la lascia stare questo Don Quixote. E lui ha sottolineato e ha voluto precisare che lui non crede assolutamente nelle cose ragionevoli, per cui ha continuato a seguire questo sogno e finalmente lo ha realizzato. E noi come M2 devo dire siamo

storia, quando la barca è stata sequestrata dalle autorità italiane, era il 2 agosto 2017 a Lampedusa. Come avevi pensato di realizzarne un documentario? Ma io sono rimasto folgorato, diciamo, da questa storia. Era appunto, io sono arrivato su questa storia un po' tardi, era la primavera del 2016, ho letto questa notizia su una testata italiana e subito la storia mi ha veramente colpito, perché l'idea che dei ventenni in qualche modo non si arrendessero a un'impotenza che mi sembra dilagante nella nostra contemporaneità e si mettessero in prima persona e credessero di poter ancora influenzare le dinamiche sociali mi sembrava una cosa simbolica e potentissima, quindi subito, diciamo, ho deciso di prendere la mia arma, che è la telecamera, e di seguire questa storia. Che realtà ti si è presentata davanti? La realtà nel Mediterraneo centrale è difficilissima da spiegare in poche parole, forse appunto le immagini aiutano in qualche modo. È una zona di guerra fondamentalmente, o almeno era, adesso oggi è molto cambiata. All'epoca, nel 2016, c'erano oltre 10 navi delle organizzazioni umanitarie, e quindi la società civile, diciamo, stava mettendo una pezza a quello che era, diciamo, un vuoto politico-istituzionale lasciato all'indomani dalla chiusura di Mare Nostrum dall'Europa. Quindi c'era una grande cooperazione sul Mediterraneo. Ci tengo a dire che tutti i salvataggi venivano autorizzati dal centro della Guardia Costiera di Roma, quindi tutte le accuse che poi vengono fatte alle ONG sono in qualche modo demagogiche, nel senso che obbedivano a delle leggi del mare, e c'è la Convenzione di Alburgo del 73 che sancisce che appunto ogni persona in difficoltà in mare ha il diritto di essere salvata, ed è un dovere di chi si trova in mare di salvare queste persone. Che impressioni hai ricavato da questa vicenda? Molto, molto contrastanti, nel senso che da un lato appunto il seme che ha fatto nascere questo documentario è rimasto vivo, cioè questa potenza secondo me, del fatto che dei ragazzi di 20 anni, anche se volete in modo un po' naif, si mettessero in prima persona e decidessero di andare a fare un'azione politica, ma politica in senso profondo, in senso vero, che fosse qualcosa di politico che poteva effettivamente influenzare la nostra contemporaneità. Questo è rimasto. Poi è chiaro che all'indomani del sequestro della nave c'è stata una grandissima dispersione, da un lato, anche dell'idea iniziale, però ad oggi, per esempio, alcuni di questi ragazzi hanno fondato una nuova NG che si trova nell'Egeo, si chiama Mare Liberum, e stanno effettivamente facendo ricognizione e salvataggi sull'altra grande rotta, che è quella balcanica. Tu per quanto tempo hai seguito la nave? Ho seguito la nave per circa un anno e 6 mesi, poco più di un anno e mezzo, appunto dalla prima missione nel luglio 2016 fino a poi al sequestro, e poi ho seguito i ragazzi per altri mesi perché volevo capire come loro reagivano, diciamo, di fronte alla repressione in qualche modo di tutto il progetto politico che c'era nel Mediterraneo, perché poi attraverso, diciamo, la confisca di Juventa si è fatto di tutta un'erba un fascio rispetto al lavoro delle ONG nel Mediterraneo. Infatti il risultato è che oggi c'è solo l'Aquarius, che è tornata in mare 3 giorni fa, che è sotto gli attacchi della politica costanti comunque. E in oltre un anno hai visto materialmente la modifica di questo atteggiamento politico dei governi? Guarda, è stato veramente incredibile viverla dall'interno, nel senso che loro, la Jugendrettet, che è l'ONG che ha comprato Juventa, era stata salutata da tutti i giornali, dai media, come degli eroi, come dei giovani eroi, un esempio per l'Europa. Questo era il 2016. Nel 2017 c'è già, diciamo, iniziato a cambiare il clima politico, e ad oggi nell'immaginario dell'opinione pubblica le ONG vengono spesso erroneamente catalogate come affiliate al crimine organizzato, o quantomeno colluse in qualche modo con qualcosa di losco, e questo secondo me è profondamente ingiusto, e la storia ci darà ragione, nel senso che le ONG in qualche modo nel Mediterraneo hanno veramente salvato la coscienza europea. Nel 2000, nel 2017 i salvataggi sono stati il 25% fatti da privati. E è chiaro che per esempio la Juventus non ha mai detto, i ragazzi della Juventus non hanno mai pensato di essere la soluzione a questo problema, chiedevano solamente a gran voce che si riaprisse un programma statale di salvataggi nel Mediterraneo, e questo è secondo me quello che oggi manca, cioè non ci sono più occhi nel Mediterraneo ad oggi, non c'è un programma di salvataggio statale, e noi che ci chiamiamo un continente civile, lasciamo morire le persone ai nostri confini. 3 giorni fa sono morte 100 persone e i giornali non ne parlano. Questo secondo me è gravissimo. Ecco, proprio a proposito dei giornali, in questo rapido voltafaccia, in un periodo di tempo piuttosto breve, un peso determinante è proprio quello svolto dai mass media. Assolutamente. Io devo dire che improvvisamente, quando la Juventus è stata sequestrata il 2 agosto 2017, sono stato contattato da testate delle più varie, diciamo, testate italiane, perché ero l'unico che aveva un contatto diretto con i ragazzi della Juve Red, che sono finiti in mezzo a questa tempesta mediatica che poi ha in qualche modo distrutto l'immagine di tutte le ONG nel Mediterraneo. Oggi penso che la repressione avvenga attraverso proprio una denigrazione sui mass media, e che questa sia strumentale a una volontà politica, questo mi sembra abbastanza chiaro. Michele, in chiusura, ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più sul tuo documentario? Allora, siamo sui social, quindi Juventus il film su Facebook, e abbiamo un sito che stiamo portando avanti con molta passione, perché questo film ha oltre 500 ore di girato, quindi ci sono tantissimi extra su juventa.film, e vorrei ringraziare la distribuzione Zala Be Wanted, che porteranno al cinema dalla prossima settimana a Juventa. Iniziamo col Farnese, abbiamo già una data a Milano per il 27, quindi da lì speriamo di poter far vedere il film a più gente possibile e di ristabilire una narrazione un po' più umana su questo tema. Un ringraziamento e un saluto a Michele Cinque, regista del documentario Juventa. Michele, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille, un abbraccio a tutti voi e agli ascoltatori. Alfredo Lopiero, regista del documentario La libertà non deve morire in mare, in uscita in sala il 27 settembre. Alfredo, ben trovato. Buongiorno a tutti, buongiorno. Lo presenti? Sì, La libertà non deve morire in mare è un documentario drammatico come genere, l'ho realizzato nel 2016-2017, 2 anni di lavorazione. E uscirà finalmente prossimamente il 27 settembre. Ahimè, la cosa che mi dispiace è che quando l'ho girato l'anima era completamente diversa, nel senso che l'aria che si respirava in relazione al dramma della migrazione era completamente diversa rispetto all'attuale, ma non di meno il messaggio umano che voglio lanciare con il film penso proprio che non subisca nessuna variazione completamente, anzi è il periodo giusto forse per poterlo vedere e poter in ogni caso avere, trarne delle conclusioni non affrettate come quelle che spesso la stampa e l'informazione ci porta che siano, invece avere le idee un po' più chiare su quello che è il dramma. Com'era nato il progetto? Allora, il progetto è nato quasi casualmente, nel senso che stavo lavorando ad una sceneggiatura che aveva a che fare sempre con il problema della migrazione, e scelsi Lampedusa come isola idonea per potermi rilassare, ma allo stesso tempo per trarne ispirazione. E quindi partì a Lampedusa con un mio collega, il direttore della fotografia Giuseppe Bennica, portandoci dietro una piccola attrezzatura solo per fare dei sopralluoghi, degli scatti fotografici. Quindi con me avevo solo una piccola macchina da presa, un drone e qualche microfono. Solo che il destino ha voluto che quando atterrai a Lampedusa, proprio in quel momento ci fu si viveva il dramma di un barcone che era appena approdato, circa 500 migranti, e lì vuoi non vuoi mi trovai direttamente coinvolto in un set che però è tutto non naturale. Partì il primo Chuck, fece una chiamata a Roma dicendo che sospendevo il progetto su cui stavo lavorando perché avevo ben altro da raccontare, e così è partito questo lavoro. Quanto è durato il tuo viaggio? Beh, io sono stato quasi 4 mesi poi imbarcato, perché 15 giorni rimasi a Lampedusa, poi da lì Sergio, che ha realizzato Claudio Cutri, che non per niente, lui aveva già un'esperienza con l'Africa, lui tra la troupe del film La mia Africa, quindi ti lascio immaginare perché volutamente ho voluto che fosse lui la persona che si potesse occupare del montaggio. Che esperienza è stata? Traumatica, forse. Io ricordo che ero papà, aspettavo l'arrivo del mio terzo figlio, papà era arrivato da poco il mio secondo, quindi quando mi trovai sul posto, vedere i bambini senza genitori arrivare, gente che annegata, morta in mare, non poter far nulla, per me è stato un forte trauma. Non dimentico le forze dell'ordine, allora c'era un comandante dei carabinieri che vedeva me e il mio collega che riprendevamo con difficoltà perché singhiozzavamo continuamente. E allora mi disse: Cielo Piero, se lei vuole realizzare e portare a fine questo filmato, dice, mi raccomando, è importante che lei diventi più cinico, perché sennò da qui non se ne esce. Devo dire che è stato un trauma che ho portato dietro e che tuttora non dimentico. Circa un anno e mezzo l'ho vissuto con difficoltà. Oggi forse avrò raggiunto quel cinismo che tanto mi raccomandava il comandante dei carabinieri. È un cinismo razionale, nel mio caso, è voluto e allo stesso tempo pensato. In questo lasso di tempo, dal 2016 al 2018, come secondo te, per come lo avverti, vivendolo sulla tua pelle, ma anche adesso, magari seguendolo un po' più a distanza, come è cambiato l'atteggiamento dell'informazione e della politica nei confronti della migrazione? Ma secondo me, perché questo è il mio parere, è cambiato solo la politica, penso che è cambiato la voglia di poter dir basta a questa mattanza, perché non si tratta di tale, e forse è l'approccio al problema che è troppo irruento e che si impiega in maniera errata come comunicazione. Io posso da una parte approvare la volontà del ministro di evitare che sbarchino e che in Italia arrivino gente senza nessun controllo, però dall'altra parte non sono d'accordo sulla chiusura dei porti. Quindi io dico sempre che umanamente è opportuno che l'Italia faccia il suo lavoro. Noi siamo numero uno da questo punto di vista, ci siamo straordinari a dare accoglienza, siamo straordinari a dare supporto, ma forse non siamo all'altezza di poter gestire un flusso migratorio come quello di quest'epoca. Pertanto gli aiuti che vengono dati continuamente all'Europa sono aiuti illeciti. Forse dal mio punto di vista sarebbe opportuno operare non direttamente qui, ma creare proprio dei corridoi umanitari, realizzare il tutto, bloccare le partenze già dal Nord Africa, è lì che è il problema. Poi ovviamente, così come voce di popolo, sarebbe opportuno non conquistare l'Africa o lasciare che non parti, rimango lì, ma questo è un problema che servono secoli affinché si possa debellare. Attualmente il problema grande è che un flusso ingestibile sta partendo dall'Africa, dal Nord Africa, e quindi a mio avviso sarebbe opportuno bloccare lì, anche attraverso la forza militare, e realizzare dei corridoi umanitari direttamente sul posto. Poi che la politica in questo momento stia utilizzando un linguaggio scorretto, così come l'informazione, beh, questa appartiene a una caratteristica sia della politica che dell'informazione. Di fronte a questi drammi, a mio avviso, bisogna essere più umani, meno politici, meno di parte, forse si vivrebbe diversamente quello che è il dramma di quest'ultimo millennio, nuovo millennio. Certo, non è solo un problema di toni, perché le ONG nel Mediterraneo sono state praticamente tutte bloccate. Era l'Aquarius, che però su pressioni pare del ministero è stata bloccata a Panama. Sì, sì, quello che prima erano i toni adesso si sta cercando di trasformarlo in qualcosa di, a loro avviso, più concreto, ma bloccando ONG, bloccando chi da questo punto di vista costantemente, quotidianamente impiega le interforze per cercare di evitare i drammi in mare, ovviamente questo è un altro punto di vista, un altro dramma sicuramente. Cosa dire? Ho vissuto sulla mia pelle, so il lavoro che fanno le ONG, so i lavori, almeno per quanto mi riguarda, i Medici Senza Frontiere, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, di Sette Comune, che si impiega costantemente e quotidianamente nel supportare chi chiede aiuto, e altri in questo momento sopra, pensano di poter reagire, di risolvere il problema bloccando ed evitando supporti umani, ribadisco, secondo me questo non è il modo giusto per affrontare il problema. E che uscita sarà il 27? Il 27 ci sarà la prima, sarò ospite anch'io al Cinema Aquila, incontrerò il pubblico, incontrerò l'altra stampa, incontrerò lo stomaco di chi vuol conoscere e affrontare il problema in maniera diversa, perché ho sempre detto questo film vi dà la possibilità di capire effettivamente, di conoscere una verità che forse spesso, non so per quale motivo, ma viene tenuta a tacere. Quindi il consiglio che do è quello di venire a vedere il film proprio per avere una visione completa rispetto a quello che attualmente l'informazione dà. Completa perché si vive il dramma direttamente sul campo. Io ho lasciato che la macchina da presa non trascurasse nulla, quindi sono le dirette testimonianze dei sopravvissuti, i testimoni di gente che, i pescatori che si è buttati in acqua per salvare migranti, della Guardia Costiera che continuamente, costantemente, ogni giorno fa un lavoro strepitoso e straordinario, e non finisco mai di dire grazie. Vale per la Guardia di Finanza, vale per tutto il Corpo di Stato, che purtroppo non, tutto questo non viene fatto vedere, lo trovo ingiusto. E poi ovviamente per tutte quelle ONG, nel caso mio, l'esperienza vissuta con Medici Senza Frontiere. Ripeto, è opportuno vedere, poi ognuno è giusto che ne tragga le dovute conclusioni, ma è opportuno vedere perché in questo modo non si ha, non si ascolta solo una campana, ma si ascoltano diverse campane, e quindi poi ognuno potrà decidere se è opportuno lasciare che la gente muoia in mare, se è opportuno che la gente non debba partire, o se è opportuno che si debba agire drasticamente come è stato scelto adesso. Alfredo, ad ora in quante sale sarà il documentario? Guarda, questa è una cosa che attualmente non ho la piena conoscenza. Sono stato informato che sicuramente saranno oltre 100 sale su cui viene distribuito il film. È stato anche patrocinato da Agiscuola, quindi avrà una distribuzione anche come messaggio educativo e informativo nelle scuole, perché è opportuno che tutti sappiano. Quindi io mi auguro che di queste 100-150 che siano sale di distribuzione possano diventare sempre più e numerose. Questo dipende dal pubblico, dipende dalla sensibilità del popolo italiano e non solo, di capire quanto sia importante lasciare che gli italiani sappiano la verità. La libertà non deve morire in mare, documentario di Alfredo Lo Piero, in uscita in sala giovedì 27 settembre. Un ringraziamento e un saluto. Alfredo, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Crepi, grazie a voi per il tempo dedicatomi. Ci vediamo giovedì al Cinema Aquile a Roma. Vi aspetto. Con il regista Mimmo Calopresti, direttore del Nuovo Cinema Aquila, per parlare della rassegna Il 68 a Via L'Aquila 68, a partire da oggi, 24 settembre, fino al 3 ottobre. Mimmo, ben trovato. Ciao, eccovi qua. 68-68 è bello, no? Questo legame con l'indirizzo del Cinema Aquila e con questa data mitica ormai, no? Sì. Ma lontana però, ecco, bisogna da questo secondo me. Allora raccontaci, intanto presentaci la rassegna. Ma la rassegna in realtà è un focus sul 68, partendo da quello che è stato un po' il cinema militante di quegli anni lì, no? Quindi sì. Come dire, allora si faceva cinema, no? Per raccontare quel mondo lì, quella situazione lì, che sia la storia che si era creata. E chi lo faceva perché partecipava, no? Questa è la cosa più importante di tutti. Era un cinema, come dire, in cui non guardavi quello che stava succedendo, ma eri dentro a quello che stava succedendo. Magari ci riflettevi a quello che stai facendo, no? Sì. Quindi, come dire, in qualche maniera un cinema militante in questo senso qui, no? Qualche volta quando si parla di cinema militante, politico, no? Si rischia di pensare a un cinema freddo che ha una tesi politica, c'ha una cosa così, no? Il cinema militante è il cinema di chi fa, di chi partecipa, di chi è coinvolto, quindi è un cinema di passione prima che un cinema politico classico. Ecco, quindi la rassegna fa quello, prende dei capisaldi, dei film di quel momento, magari appunto oggi lontani, no? Molto, molto lontani. Cerca di attualizzarlo, Sì. no? Per questo non è che l'inizio, dico io, per raccontare il 68 e poi deve diventare invece 68 oggi, cosa ho voluto dire, no? Questo racconto diretto dal 68, che tipo di direzione e di frutti ha dato, Sì. sono molto importanti, quindi Mimmo, quante opere presenterete? facciamo tante cose, tanti incontri, tanti momenti di dibattito, magari anche frazioni di film. Quando si pensa a quel periodo lì, no? Sì. Possiamo pensare al film, no? Dobbiamo pensare al cinema, dico io, con la curiosità di capire anche come si faceva il cinema in quei momenti, Sì, no? sì, sì. Quei protagonisti, sai, giravano con Super 8, con 16 mm, pezzi di cinema, non c'erano i soldi per raccontare, capito? Per fare tutto un film completo, quindi facevano, come dico io, quello che potevano, no? Sì. Però lo facevano perché, dico una cosa, perché ci credevano, non so, qui c'è ancora la purezza, non dell'ideologia, che non faceva parte di quel mondo lì, secondo me, ma c'è la purezza del sogno, dell'utopia, no? Utopia, per cui l'idea di cambiare il mondo, no? È un'idea utopica, in realtà tutti i giorni è difficile cambiarlo, il mondo, però loro ci provavano tutti i giorni, no? Ci provavano le mani. Hanno provato quegli operai, dico dopo, ci hanno provato, se vuoi ci ha provato i ricchi e i poveri, dico io, no? Nel senso che poi il 68 è borghese, no? In realtà, no? Pasolini lo individua bene quando dice i poliziotti erano figli dei proletari, no? Erano i veri proletari, in quel momento lì, gli studenti erano dei borghesi, no? Però non importa questa cosa qui, nel senso che poi i figli dei borghesi avevano gli strumenti per potersi ribellare, no? E quindi questo è stato l'insegnamento per tutti noi, no? Allora, se noi abbiamo dentro la nostra rassegna i frammenti, per dirti, delle immagini di quando a Valle Giulia, no? Gli studenti vengono caricati e comincia il 68. In America in quel momento lì abbiamo Fragole e Sangue, Berkeley, eccetera, dove, come dire, c'è già il racconto di finzione, no? C'è già quasi, non c'è Hollywood, ma quasi, non so Sì, come dire, sì. no? Quindi, come dire, non importa che fossero poi quelli ricchi, no? A far Sì. partire l'idea della ribellione, infatti si ribellavano, perché hanno creato un'idea di come ribellarsi è giusto, ripensare se è possibile, ecco, questa è la mia idea del 68, con Sì. tutti i problemi che ho avuto. Senti, Mimmo, allora, facevi riferimento alle immagini di Valle Giulia. Ecco, ci sono anche chicche degli inediti che proponete? Guarda, oggi è difficile parlare degli Beh, inediti, certo. no? Cioè, sul 68, però voglio dire, ci sono dei film, adesso mi viene in mente, lì cosa presenta? Guarda, Ora è sempre Riprendiamoci la vita. riprendiamoci la vita e poi un altro film, giusto? Cioè, allora, Silvano Agosti è uno, no? Che ha fatto il cinema militante nel modo come lo intendevo io prima, no? Sì. Il cinema di partecipazione, quello che andava e girava, no? Sì. E lui conosceva il cinema e partecipava col cinema al dibattito. Quando fa oggi, vediamo il suo film, no? Che chiama Ora è sempre Riprendiamoci la vita. Riprendiamoci la vita. Allora, quando Silvano Agosti presenta Riprendiamoci la vita, dentro tu vai a vedere quello che c'è, no? Di immagini, vedi immagini che hai già visto, no? Ma tutte le volte, nel modo poi di montarle, metterle insieme, dargli un significato, diventano nuove, no? E diventano per la prima volta davanti ai tuoi occhi, riprendono significato. Perché il problema è questo, di quel tipo di immagine lì, che è un racconto, se vuoi, frammentario di quegli anni. Ma come dire, poi quello che hai vissuto dopo, no, ti permette di interpretarle, no? Noi dobbiamo essere bravi a reinterpretare, no, la nostra storia, i nostri movimenti, le cose che abbiamo avuto, fatto, no? Per capire chi eravamo. Allora, attraverso Silvano Agosti, noi, al di là di quello che è Silvano Agosti, riusciamo a capire qualcosa di più, no? no? Di quel mondo lì che lui riprendeva in quel momento lì, di quanto era stato detto fino in questo momento, perché se tu parli del 68 non puoi che finire la retorica, no? Cioè, sembra che era tutta la... E invece Silvano il 68 lo vede come possibile perché c'è stato il 77, cioè il vero 68 è stato il 77 secondo Silvano, no? Quindi Sì. partendo da quell'immagine lui arriva a un altro passaggio più importante che è il 77, no? Sì. E quindi il modo come un regista, come un autore, come lui, eccetera, mette in piedi le cose, no? Le organizza, fa il montaggio, le ripropone, ecco che diventano sempre una grande novità, no? Io infatti seguirei sempre di più, no? Seguirei, come dire, per esempio Silvana Agosti è uno che bisogna seguire in più cose, no? Per capire chi è, cosa racconta, perché ancora oggi a Roma c'è un cinema, il suo cinema, che è un punto di riferimento, no? Cinema di tutti, perché partendo da quel cinema militante, poi ha fatto un altro tipo di cinema, e questo, come dire, dà una lettura di qualcosa che oggi, sinceramente, 68 è qualcosa di molto lontano, Sì. no? Ma è primario rispetto, no, al fatto che quel momento lì ha permesso poi il 77, poi ha permesso Genova, poi ha permesso e avanti, no? Forse permetterà tra 10 anni qualcosa di importante, no? Spero prima io, però, Sì. come dire, no? E però per pensare che quella Sì. cosa lì si possa ripetere, quella rivolta, il cambiamento, eccetera, devi saperlo, devi sapere che anche lì ci sono stati dopo, ci sono stati prima, ci sono stati dei momenti in cui il 68 c'era ma non si vedeva, no? Allora, per questo è interessante fare una segna cinematografica, perché noi attraverso il 68, allora, attraverso il 68 lo vediamo il 68, no? Ma magari era cominciato molto prima, negli anni 60, con le rivolte dei neri in America, già per esempio una rivolta operaia che era sotterranea, no? Era in Italia, per esempio, che non si riusciva a esprimere. Ecco, i 68 tottini cosa hanno fatto? Con la loro voglia di liberarsi dalla loro borghesia, dei loro padri, eccetera, hanno permesso a tutti questi di esistere, no? Sì. Perché prima non esistevano. E questa è la bellezza del 68, capito, per me, su cui bisognerebbe discutere, capire, no? Poi voglio dire, discutere, possiamo anche guardare e basta delle volte, non è che sempre c'è bisogno di discutere. Allora, ricordiamo la rassegna il 68 a Via L'Aquila 68 a Roma, al nuovo Cinema Aquila, dal 24 settembre al 3 ottobre. Un saluto e un ringraziamento al direttore Mimmo Calopresti. Mimmo, un Grazie, abbraccio, a risentirci presto. a presto veramente, grazie veramente Ciao. di tutto, ciao. Con Silvio Montanaro, regista del documentario 1968, Gli uccelli, una storia mai raccontata, che sarà presentato a Roma al nuovo Cinema Aquila il prossimo 28 settembre. Silvio, ben trovato. Bentrovato a te e a chi ci ascolta. Lo presenti? È la storia di questo gruppo creativo, direi, che è un gruppo attivo nel 68 che faceva della sana provocazione, quindi gesti eclatanti, l'occupazione della cupola di Sant'Ivo, quella dei Sassi di Matera, quello che era la sua cifra, la sua maniera di operare. Un po' un percorso diverso rispetto a quello che era il mainstream della contestazione del 68. Questa storia che pure ebbe un forte impatto sia per i risultati mediatici, le coperture di stampa, televisiva, delle loro azioni, ma anche perché avevano molti seguaci, poi si è un po' inabissata, cioè con gli anni successivi, con l'emergere della parte più politica della contestazione, è stata un po' dimenticata. Ho ritrovato i tre uccelli fondatori e più una serie di seguaci e abbiamo riraccontato questa storia qui. Quello che impressiona subito intanto è la creatività delle loro proposte, delle loro idee, delle loro pratiche. Direi proprio di sì. Loro in qualche maniera combinavano questo impegno politico, perché loro era un impegno politico costante, operavano con una matrice che